America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, la copertina di questa settimana non posso che dedicarla a quello che è successo a San Bernardino, ai tragici fatti di San Bernardino in California. È stato un weekend di dolore per l'America intera. Abbiamo appreso molti dettagli sulle vittime, ci sono state delle cerimonie, delle preghiere per onorarle. Soprattutto si è parlato su quel che si deve fare. Ha parlato il presidente Obama in un discorso dalla Casa Bianca, dall'ufficio ovale, e pensate, soltanto il terzo discorso che fa dall'ufficio ovale da quando è presidente, dunque l'occasione era davvero solenne, ma Barack Obama ha voluto parlare alla nazione per rassicurarla e per dire che purtroppo quando ci sono dei cani sciolti, come era il caso degli attentatori di San Bernardino, degli individui che non sono direttamente legati all'ISIS, perché questo ha voluto chiarire il presidente, si muovevano sulla base di ideologie, si ispiravano all'ISIS, ma in realtà poi andavano nei negozi a comprare le armi per crearsi il loro arsenale. Ecco, Barack Obama ha chiarito che purtroppo questo tipo di incidenti, come quelli che vediamo poi nelle scuole o quando vediamo qualche folle che armato fino ai denti fa una strage per strada non motivata da ragioni ideologiche, ecco, questo tipo di attentati sono purtroppo inevitabili, vanno messi nel conto. Ma sentiamo il presidente dalla Casa Bianca. So far we have no evidence that the killers were directed by a terrorist organization overseas or that they were part of a broader conspiracy here at home. But it is clear that the two of them had gone down the dark path of radicalization, embracing a perverted interpretation of Islam that calls for war against America and the West. So this was an act of terrorism designed to kill innocent people. Ecco, Obama dice un atto di terrorismo, ma finora non abbiamo prove che i killer di San Bernardino siano stati diretti da gruppi terroristici all'estero, anche se avevano iniziato un percorso di radicalismo. L'ISIS non parla a nome dell'Islam, dice ancora Barack Obama, sono dei criminali, i musulmani li ripudiano, non rappresentano quel miliardo di musulmani nel mondo che vivono una vita normale con le loro famiglie, con il loro lavoro e quei musulmani che fanno lo stesso qui in America. Sentiamo ancora Barack Obama sulla questione delle armi. We also need to make it harder for people to buy powerful assault weapons like the ones that were used in San Bernardino. Ecco, Barack Obama dice occorre rendere più difficile, molto più difficile per la gente di acquistare potenti armi d'assalto come quelle usate nell'attacco in California. Dobbiamo approvare una legge che impedisca a chi si trova già in una lista nera a coloro che già non possono viaggiare in aereo di non comprare delle armi, dice, è assolutamente normale, perché non li facciamo volare ma poi li facciamo comprare un fucile automatico? Sono pericolose, dobbiamo evitare che queste persone possano comprare delle armi. In realtà Barack Obama vuole soltanto dei controlli, che ci siano dei controlli di sicurezza, impedire la vendita di armi a personaggi appunto considerati pericolosi, ma in questo contesto naturalmente c'è una forte polemica perché i repubblicani resistono, i repubblicani stanno attaccando Barack Obama, lo accusano di debolezza, cercano di capitalizzare su quello che è successo in California per dire qui ci vuole un presidente guerriero, dobbiamo fare una campagna elettorale che punti non al controllo della vendita delle armi in America ma all'attacco di coloro che ci vogliono uccidere. È una retorica facile, è una retorica pericolosa, ma è una retorica che sul piano politico funziona, di cui i democratici dovranno tener conto. Sentiamo di nuovo Barack Obama. Our success won't depend on tough talk, or abandoning our values, or giving in to fear. That's what groups like ISIL are hoping for. Instead, we will prevail by being strong and smart. Ecco, qui Barack Obama chiude, il nostro successo, dice, potrà essere raggiunto se non abbandoneremo mai i nostri valori, prevarremo se saremo forti e intelligenti, non ci faremo trascinare una guerra sul campo per far morire un'altra generazione di americani dando loro l'occasione di fare proseliti, come dire, non possiamo cadere nella trappola, come è già successo in passato, perché le cose rischieranno di peggiorare. Come commander in chief, ha detto ancora il presidente, la mia più grande responsabilità è quella di proteggere il popolo americano, e ha chiuso, sono fiducioso, siamo dalla parte giusta della storia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vi è più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera, potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno di Tracy Chapman, Fast Car. You get a fast car, I want a ticket to anywhere, maybe we make a deal, maybe together we can get somewhere, any place is better, starting from zero, got nothing to lose, maybe we'll make something, me myself I got nothing to prove.